Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Inizia ancora una grande giornata di racconto, di passione, di storia, ed è anche la giornata in cui io presento il più grande opinionista vivente, Federico. Che sciocchezza sto dicendo? Preso dall'entusiasmo. Senti, cari ascoltatori, passa la conferma del ruolo per chi è stato dirigente. Non crediate che sono io che sono impazzito. Uno Stato che si calpesta da solo è uno Stato che perde credibilità. Sempre sobria, soft. Tenetelo d'occhio. È una difesa stupida che svilisce. Guarda che ti querela. Come tutti i leninisti, stai con il repressore arrestatore, ma sei coerente in questo? A essere ancora uno che cerca di ragionare con la sua testa, che sbaglia. Senza avere nulla da temere. Alt, si ferma tutto. Viva la Catalogna libera! Oh. Qual è la tua notiziola di oggi che ti ha intrippato? Ricordarmi che tutti dobbiamo morire. Potrebbe essere un destino di tutti noi. Ma sì, perché è pazzesco. Eh? È pazzesco. Io non sono uno che crede alla curva di Laffera. Tagli di spesa. Sì, Lafferia. Ma no. Prochiano. Mi ha colpito molto questo fondo di gramellini che ora non trovo, se qualcuno mi dà soccorso, eccolo qua, vai. Io ho letto il Corriere per 20 anni, gli ultimi mesi mi sono stancato. Formulo un caveat. E non mettere 40 premesse. No, io figurati. Formulo le mie più sentite scuse. Il romanzo della fine è il racconto più difficile da scrivere. Simul stabunt, simul cadent. Buongiorno popolo dei Giasvegli, siamo qui l'ultima mattina della settimana lavorativa, per molti la penultima, per tanti e un altro giorno come tanti per coloro che lavorano anche la domenica, ma noi siamo qui a festeggiare questo incipiente inizio di feste natalizie e quindi siamo in un'atmosfera gioiosa con Giuseppe Caporale, direttore di Tiscali. Buongiorno. E Massimo De Manzoni. Ecco, è Bublé che canta per noi. Allora, voglio dirvi subito che ce n'è oggi da discutere, da divertirvi, ma sottoporvi questo caso carino, lo leggo fra l'altro dalla Verità di De Manzoni, quindi sai che parlo delle multe del Comune di Roma. Per fare un po' di cassa si è deciso di cercare di riscuotere anche le multe di coloro che sono state, come dire, comminate dopo la morte degli interessati. Voi vi chiederete come è possibile. Io lancio questo enigma, ma so che De Manzoni già può rispondere. Come si fa a ricevere una multa dopo la morte? Io suppongo, mi sono fatto la stessa domanda ieri, suppongo che siano multe per divieto di sosta. Uno, esatto, partizzare la macchina, salire in muore e morire serenamente. E poi devi pagare. E se non paghi tu, pagano i tuoi eredi. Allora dateci subito un commento su questo, Giuseppe, che non è male come trovata. Beh, diciamo che le casse comunali stanno toccando il fondo, nel senso che questo è un ennesimo balzello per trovare una via di fuga a un buco dei conti pubblici inarrestabile. De Manzoni, la motivazione di Caporale è ineccepibile, però non è proprio brillante come iniziativa. Cioè uno muore. Non ho sentito perché mi hanno staccato. No, dico, no, dopo che abbiamo chiarito che sarebbe praticamente la multa per le macchine parcheggiate delle persone decedute, non è brillante come iniziativa per fare cassa questa. Beh, no, chiaramente essere alla canna degli altri, come si dice, una milpa. Cerca di migliorare un po' il collegamento, perché si sembra veramente che parli dal fondo di un barattolo. Ma entriamo subito dentro il fritto misto. I vostri messaggi sulle multe, sui decessi, su quello che volete voi al 349-238-6666 già ne stanno arrivando, per dei già svegli particolarmente premurosi. Iniziamo il fritto misto con gli indipendentisti che festeggiano in Catalogna. Rajoy ha parlato. Allora, un bel pasticcio, e cominciate dei Manzoni, perché è vero che vincono di 3 seggi gli indipendentisti, quindi consegnandoci comunque la fotografia di un paese spaccato, ovviamente una Catalogna che non può fare a meno della Spagna, ma è anche vero che il primo partito è un partito unionista, quindi proprio una soluzione un po' all'italiana. Sì, sì, le elezioni non hanno fatto la chiarezza che qualcuno sperava, ma era abbastanza noto che sarebbe andato a finire così. La Catalogna mi pare spaccata in due, perché il vantaggio di tre seggi è abbastanza esiguo, soprattutto considerando che tra gli indipendentisti non c'è, ci sia proprio tutta questa identità di vedute. Massimo, mettili un posto in cui prende meglio, si sente tutto spezzato. E comunque è chiaro quello che dici, è un esito in parte atteso. Cosa cambia ora, Giuseppe? È un pugno allo stomaco, l'ennesimo pugno allo stomaco all'Europa, come scrive Alberto Negri in un pezzo che pubblichiamo oggi, è la sconfitta dello Stato-Nazione. Oh, ma state due stracci oggi, pure tu hai una voce provata. E vabbè, è il bello delle 6:30, è il senso epico di esserci qui comunque. La Raggi dice che tutti si sono affezionati a Spelacchio, qua vi voglio. Abbiamo sicuramente avviato un'indagine interna per capire esattamente di chi sia la responsabilità, però diciamo anche un'altra cosa, prendiamola con un pochino di sorriso. Tanto a Spelacchio, come è stato ribattezzato, si sono affezionati un po' tutti. Allora, che cosa ne dite di questa vicenda di Spelacchio? La notizia ha fatto un po' il giro del mondo, continua a camminare, è un best seller, Massimo, che ne pensi? Massimo De Manzoni. La notizia di Spelacchio è stata assunta simbolo di una giunta. Tu sulla verità hai raccontato la vera storia di Spelacchio, nato rigoglioso e partito rigoglioso, è arrivato in quelle condizioni. E era inevitabile che succedesse così, perché i simboli vanno più forte delle gambe su cui camminano. Devo dire che c'è stata un po' di esagerazione anche. Sembra che adesso sia colpa della giunta Raggi anche questa ennesima debacle d'immagine della città, mentre invece io penso che lì ci sia una somma di errori che c'è stata e che è indipendente dalla volontà del sindaco, devo essere sincero. Giuseppe Caporale, pensi che sia quasi eccessivo e ci sia una manovra, come denunciano molti dei 5 Stelle, per colpire la giunta? Cioè, in realtà la vicenda di Spelacchio non dovrebbe essere considerato come un parametro per giudicare la Raggi, o no? Assolutamente, mi sembra una polemica provinciale, strumentale, in un addirittura paese che ha ben altri problemi. Sì, non mi sembra una grandissima vicenda. Dopodiché è un simbolo, Roma è un simbolo, e come giustamente sosteneva il collega, è diventata un punto di riferimento, ma non è da questo che si giudica la Raggi, ma sicuramente sotto altri aspetti. Poi esiste sicuramente un tema di conti pubblici, ma stiamo parlando di 8.000 euro e della gestione di un albero di Natale, mi sembra parva materia. Allora, come sempre c'è il grande correttore automatico dei nostri ascoltatori interattori, perché non è... questo è Frank Sinatra, giusto? Bravi, era stata una svista qua nel nostro coordinamento redazionale. Allora, continua a far discutere da due giorni la vicenda meravigliosa dei messaggi cosiddetti di gogna richiesti dai vigili urbani per ritirare e le querele su ingiuria verso i pubblici ufficiali. Sentiamo un frammento. Io sottoscritto esprimo profondo rincrescimento per il comportamento tenuto nelle vicende per i quali sono indagato, per oltraggio a pubblico ufficiale. Formulo le mie più sentite scuse. Voglio inoltre rivolgere a tutti gli appartenenti del corpo di polizia locale apprezzamento. Era un messaggio fotocopia che bisognava realizzare su quel sito con quelle modalità e, come avete visto, con quelle parole. Oggi esplode la polemica sui quotidiani. Io dirò una cosa proprio controcorrente: non mi sembrava un provvedimento barbarico, però voglio sentire la vostra opinione. Vediamo se destra e sinistra giornalistica hanno dei punti diversi su questo. Giuseppe. Beh, secondo me purtroppo invece è un atto assurdo, e credo che siano dovute anche delle dimissioni a questo punto. Addirittura. Sì, non si, in uno stato civile. Ma perché è una violenza? Che cosa? Ma quando uno rimette una querela, scrive una lettera di scuse, è la stessa cosa. Era il video qui che cambiava. Pubblicare un video online di scuse è un pubblico, è una pubblica ammenda video che non ha alcun senso, è un'umiliazione nei confronti degli automobilisti, e credo che... Bene, parere netto e chiaro. Massimo? Sono d'accordo, non penso ma quando uno scrive una lettera di scuse non è la stessa cosa? Ma una lettera di scuse la scrivi spontaneamente. In questo caso qui, se c'è stata una violazione, viene sanzionata, ci sono le sanzioni previste. Essere costretti in qualche modo a questa pubblica ammenda, a mio modo di vedere, non è il compito che spetta al vigile. Il vigile deve sanzionare, far presente a autorità terza quello che è successo, che poi deciderà di conseguenza. Non penso neanche che ci sia una riduzione di pena per chi si sottopone a questa gogna. Non ha molto senso. Allora, la Renzi, sì, Boschi, sì. Eccomi qua. Renzi interviene sul caso Boschi con una lunga intervista a TGCom 24, dice che sarà candidata e dice saranno gli elettori a giudicarla. Voglio sentire la vostra opinione, ovviamente, ma sentiamo il passaggio. Il politico si fa giudicare dai cittadini, sì. Quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non soltanto Maria Elena Boschi, debba essere riportato in Parlamento o no. Per cui per noi questa discussione è una discussione che non esiste. Allora, molto importante dal punto di vista del racconto, cioè dopo questa prova di fiducia, difficilmente tutti i malumori di cui parlano i giornali oggi potranno spingere la Boschi a non candidarsi, ma è giusto il principio giudicano gli elettori? Antonello Caporale, sì, Giuseppe Caporale, oggi sono fuso, Tiscali e poi De Manzoni. Il ragionamento ha un senso soprattutto se la Boschi si candiderà in Toscana, però, e soprattutto in quel collegio dove poi ci sono stati la terina per tutti quei correntisti. Per il resto sì, il ragionamento ha un senso, però vale solo per quel collegio, perché è lì che c'è stato questo enorme problema. E De Manzoni? Intanto bisogna vedere, appunto, fino adesso in Italia da molti anni a questa parte non ci sono più eletti ma nominati, per cui il giudizio degli elettori è difficilissimo. Deve presentarsi in un collegio, ovviamente, però ricordo parole molto molto diverse a proposito di altri casi in cui si tirava in ballo l'opportunità politica, e sono effettivamente due cose diverse. Io dico che una politica come la Boschi, che aveva già fallito al referendum e aveva annunciato, poi senza dare corso alla sua promessa, che si sarebbe ritirata addirittura dalla politica, ce la ritroviamo lì, scoppia tutto questo popò di conflitto di interessi. Una riflessione su un passo indietro sarebbe necessaria dal punto di vista proprio della politica. Poi decideranno gli elettori se la faranno correre in un collegio sensato, però io il passo indietro l'avrei fatto molto prima. Daniela Santacchè nella sua nuova veste di punta d'Ariete di Fratelli d'Italia, no, l'anello al naso su Carrai. Penso che sia evidente che la Maria Elena Boschi si sia interessata della Banca Etruria perché ne aveva un interesse personale, in quanto c'era il padre e il fratello. Che car- vorrai, mando una mail a Ghizzoni, ti sollecito. Ma scusate, ma secondo voi, ma chi gliel'ha chiesto di fare quella roba lì? Perché io sono anche nata a Cuneo, ma l'anello al naso non ce l'ho. Cuneo anello al naso, strana correlazione. Orfini contro Annunziata proprio su Carrai. La sua direttrice ieri ha scritto un editoriale pazzesco, pura creatività, in cui la tesi era: non importa se Carrai agiva su mandato di Renzi o se agiva per un suo cliente, comunque è colpa del PD. Oh, ma siete matti, siete fuori di testa. Prima De Angelis, perché è stata chiamata in causa. Mi rispetto, ma tutto questo col giornalismo non c'entra nulla, e poi già la mia amica Lucia Annunziata. Il duello era fra Alessandro De Angelis di Huffington Post e Orfini sulla direttrice, ma il tema è Carrai. Oggi parla al Corriere della Sera e dice: io non c'entra nulla il mio rapporto con Renzi, ho mandato questo messaggio per conti miei perché mi occupavo di una banca collegata ad Etruria. Che cosa ne pensate, Giuseppe Caporale? Beh, sicuramente è una storia che andrà approfondita. Banca Etruria è una ferita per questa, no, per il sistema bancario. Colpisce soprattutto il che c'è stato, almeno a quanto pare, poco attivismo per le altre banche, perché ben venga salvare Etruria, ma il grande problema era salvare Etruria. Va detto poi alla fine che in realtà non è stata salvata nessuna, e quindi nemmeno Banca Etruria, quindi sostanzialmente tutti questi favori poi in effetti non hanno avuto alcun seguito. Resta il tema se c'è stato lo stesso interessamento e lo stesso attivismo per le altre banche. De Manzoni? Beh, bisogna decidere a che Carrai dobbiamo credere, se a quello di stamattina e di ieri o a quello che all'epoca smentì qualsiasi interessamento da parte di suoi clienti su Banca Etruria, perché gli venne chiesto, sono anche sfortunati nelle loro smentite, gli venne chiesto proprio e rispose, ci sono gli atti, ci sono gli articoli di giornale che lo dimostrano. È difficile credere alle coincidenze. Perché lì? Quando è che gli venne chiesto, Massimo? Gli venne chiesto all'epoca, un mese dopo la sua mail, il 14 febbraio, gli venne chiesto durante l'ha riportato ieri il giornale. Il giornale ieri aveva questo passaggio in cui lui dichiarò pubblicamente ai giornali che non si stava interessando ai banchetturi. Adesso ci dice che se ne stava interessando per un suo cliente, e sono due risposte diverse evidentemente. Ripeto, a me riesce difficile credere a tutte queste coincidenze. Si è mosso Del Rio per banchetturi, si è mosso Renzi, si è mosso la Boschi, si è mosso tutto il governo fondamentalmente per banchetturi, e Carrai è talmente intimo con il Presidente del Consiglio che a me sembra molto difficile che faccia un'azione del genere senza che Renzi ne sappia. Bene, tante altre notizie da commentare fra un attimo nella nostra pentola del fritto misto, nella nostra padella incandescente, ma ci fermiamo solo un secondo per le strade e torniamo con Già Svegli con Giuseppe Caporale e Massimo De Manzoni. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Già Svegli. Buona sera Teresa, volevo dire qualcosa sulla questione Boschi, che veramente non se ne può più. Questa è una cosa veramente all'italiana, ipocrita, pelosa. Come un ministro non può neanche informarsi su una banca in cui suo padre ha un ruolo di responsabilità? E presto, ma il pensiero è questo: né perché provinciale né perché donna, la Boschi è solo cretina. Caro Denise, io non telefono di mattina perché la mattina ti sento, però telefono adesso di sera per fare una considerazione. Il triunvirato Cesare, Pompeo e Crasso. Crasso fu acquistato il triumvirato perché aveva soldini. Adesso mi viene in mente un nuovo triumvirato: D'Alema, Bersani e Grasso. Cambia la consonante, ma la musica è la stessa. Grasso porterà voti, ma non conterà un tubo. E signor Cyber Warfare. Io sono sveglia per gli affari miei, tanto quello che dirò non verrà senza meno trasmesso in questa trasmissione così soft. Tutta questa gente seduta nei salotti televisivi che si guarda in faccia e dice: ma perché Renzi non abbandona la Boschi? E si guardano tutti in faccia sapendo la risposta, come la so io, come la sai tu, e tutti dicono: ma perché, ma perché? Viva l'ipocrisia. Signora, qui c'è, se c'è una regina del savoir-faire è lei, perché ha detto e non detto con molta malizia. Però registro che anche nel recinto sacro dei Giasvegli entra la polemica politica, ed è un fatto quasi raro. Oggi c'è un sondaggio di Piepoli illustrato sui giornali, secondo cui la maggioranza degli italiani, compresi quelli di centrodestra, pensano che la Boschi dovrebbe dimettersi, ma la maggioranza, 6 su 10 degli elettori di centrosinistra, sono convinti che abbia ragione e debba tirare dritto. Quindi sono sempre le due facce del problema, ovviamente conta per il suo pubblico, i suoi elettori. Siete ancora lì? Giuseppe, cosa ne pensi di queste invettive? Un'Italia divisa, è molto divisiva. Ieri abbiamo avuto tante telefonate, va detto anche a favore della Boschi. Sì, ecco, io eviterei, come dire, accanimenti terapeutici su Banca Etruria. È una grandissima vicenda, è una ferita, come sono ferite le vicende di altre banche. Per quanto riguarda i sondaggi sul gradimento dei politici, credo che se facessimo la stessa domanda su altri politici avremmo più o meno le stesse identiche risposte. Quello che farà la Boschi lo vedremo, se si candiderà sarà meglio che si candidi in Toscana e sarà giudicata dagli elettori. Invece, sì, approfitto la domanda a Massimo per dirgli i sondaggi di ieri di Index pubblicati a Piazza Pulita, così informiamo i nostri ascoltatori. Il PD al 23,7, e la lista Liberi Uguali di Grasso al 6,5. Il centro, Forza Italia 15,4 con la Lega al 14 secondo questo sondaggio, Fratelli d'Italia al 5,3 e i 5 Stelle in piccola crescita al 27,9%. Vorrei che commentassimo questo dato, perché oggi Salvini presenta il suo simbolo, ha presentato il suo simbolo senza più il Nord. Forza Italia è sopra la Lega. Secondo questo sondaggio sì, ma è da un po' che sono così le cose. Noi pubblichiamo tutte le settimane un mega media, che è la media dei sondaggi di tutta la settimana, e sono ormai un mese che la Forza Italia è stabilmente sopra la Lega. Dopodiché sì, le differenze da una settimana all'altra mi paiono abbastanza minime. Rimane una situazione di grandissima incertezza, soprattutto per la formazione di un governo subito dopo le elezioni. Mi pare che non si sposti il problema per il momento. È anche vero che la campagna elettorale vera e propria deve ancora cominciare. Volevo dire una cosa brevissima su quello che dicevi. 4 su 10 del PD che... Sì, la maggioranza è con lei. Sì, però 4 su 10 che non la vogliono più sono pochissimo, ecco, voglio dire, possono incidere... Questa vicenda, secondo me, può incidere non poco a livello elettorale. Relata refero da Piepoli. Rocco Palese evoca le BR contro la manovra per andare soft, eh? Governo è colluso rispetto a tutto quello che è successo, alle vostre cemance, mancette e tutto quello che avete fatto per scopi solo elettorali. Avete fatto, c'è più danno a voi. Voi sì che avete colpito Concluda. Il cuore, come le Brigate Rosse, il cuore dello Stato, dei conti pubblici dello Stato. Giuseppe Caporale è un deputato di Forza Italia, non un 5 stellino furibondo. Colpisce che la Terza Repubblica abbia ormai un lessico molto disinvolto, diciamo. È difficilmente commentabile, sostanzialmente fuori da qualunque, no, non, che un discorso che non si può fare in quell'aula, in quel posto, certo, con quella responsabilità, con quello stipendio e con quel ruolo. Lo penso anche io. Berlusconi addolorato per il Milan, Massimo, è un calvario questo. Gli auguri dell'ex presidente, ma ancora tifosissimo del Milan, che vede il Milan giocare in un certo modo e sente un forte dolore, per cui non riesce quasi neppure a vedersi tutta la partita, perché non è d'accordo su certi giocatori, non è d'accordo sul modulo di gioco soprattutto, e quindi veramente un gioco che certe volte ha portato addirittura a vedere un tempo senza nemmeno un tiro in porta. È un jacuzzi tremendo, eh? Berlusconi, sì, proprio. Non è nuovo, non è nuovo. Lui ha uno schema di gioco in testa con le due punte. E ogni volta che qualche allenatore ha derogato, ha sempre intervenuto. Panchine rovente. Adesso però non ha più il potere che aveva prima. Prima interveniva e riusciva forse. No, e mandava via l'allenatore. O faceva cambiare. Ne sa qualcosa Seedorf. E invece polemica, Giuseppe Caporale, lo avrai seguito, perché a 105, il brano che vi diamo è sulla corte alle ragazze, è divertente, però c'è stata una grande polemica sui social perché Berlusconi ha letto domande e risposte scritte senza accorgersi, come accade spesso a noi, che era sorvegliato da una telecamerina in streaming. Sentite. Lei si ricorda, è già stato da noi, abbiamo fatto una bella chiacchierata, credo 4-5 anni fa, era proprio seduto lì. 4-5 però... anni fa, io sono vecchio e non ho memoria. Senta, pensate, immagini... che faccio ancora la corte alle ragazze, ma sì, non mi ricordo più per cosa. E che dici di questa polemica? I social sono pervasivi ormai, entrano, sì, con i loro occhi ovunque. Sicuramente l'immagine svela un retroscena che gli ascoltatori non sapevano e che non erano consapevoli, ovvero che c'erano state risposte scritte a domande scritte, quindi lui già aveva avuto precedentemente le domande. Però questa era improvvisata ed era divertente, questa sulle ragazze. Infatti, assolutamente. No, dicevi, aveva avuto... la telecamera ha svelato un retroscena che gli ascoltatori non sapevano, e questo ha scatenato le polemiche. Allora, Di Maio sulle alleanze del centrodestra. Adesso che Salvini è in crisi di consensi deve fare il duro. Dopo tanto sbraitare si è alleato con Lupi, si è alleato con Berlusconi. Chi vota per il centrodestra fa piombare il paese nelle liti tra... Salvini. E credo che ce le possiamo risparmiare almeno per la 18ª legislatura. Il nuovo simbolo di Salvini. Questo è il simbolo, pulito, chiaro, lineare, orgoglioso della nostra storia ma rivolto al futuro, e con questo chiediamo la fiducia di 60 milioni di italiani. Candidato Premier Salvini. De Manzoni, sei esperto di Lega, in una parola, pagherà un prezzo o prenderà più voti senza quel nord che era nella storia del partito? Pagherà un prezzo sicuramente, non un grandissimo ma un piccolo prezzo, al bordo lo pagherà. Non so, perché veramente non so quanto possa essere compensato da quello che prenderà il Sud. Non riesco a valutarlo. Secondo me... Lo decideranno gli elettori, come dice Renzi. Allora salutiamo Giuseppe Caporale, direttore di Tiscali, Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, e ci sentiamo tra poco per la segna stampa. Ciao!